negli strati del marco possente, puri del fatti di canone, puri pingo armonioso eloquente, coronato di luce d'allor, coronato di luce d'allor, coronato di luce d'allor. Vieni, assisti alla nobil palestra, piando a ci inspira nell'alba, nella brama di gloria e di palma.